452. Sformato di funghi. Tutte le qualità di funghi possono fare al caso, ma io ritengo che i porcini siano da preferirsi, esclusi però i grossissimi. Nettateli bene dalla terra e lavateli, poi tritateli minuti alla grossezza di un cece o anche meno. Metteteli al fuoco con burro, sale e pepe e quando avranno soffritto alquanto, tirateli a cottura con sugo di carne. Ritirati dal fuoco, legateli con balsamella, uova e parmigiano e assodate il composto a bagnomaria. Grammi 600 di funghi in natura con 5 uova faranno uno sformato bastante per 10 persone. Servitelo caldo e per tramesso.